giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fumata nera per Varsila, da Roma ancora una proroga per le manifestazioni di interesse per l'impianto triestino. A Monfalcone quasi 1000 colloqui per la selezione di Fincantieri e delle società dell'indotto per 680 posti di lavoro. A Trieste, tavolo dei prefetti sull'emergenza migranti, bocche cucite sulla creazione di un hotspot, accoglienza al limite. Alberto Felice De Toni è ufficialmente il nuovo sindaco di Udine, giunta pronta in 2 settimane. Lima Corporate, leader nel settore delle protesi, raddoppia la produzione, previste 100 assunzioni. Apre a Trieste la casa di Itz, museo della moda contemporanea, ma anche accademia e spazio espositivo. 7:19 minuti di mercoledì 19 aprile, buongiorno da Eva Ciucca e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è da nuvoloso a variabile. Le temperature registrate alle 6 a Trieste 14 gradi, a Gorizia 11 gradi e 5 decimi, a Udine 9 gradi, a Pordenone 8, a Tarvisio 5 gradi, a Forni di Sopra 4 gradi e mezzo, a Tolmezzo 4, sul Piancavallo 2 gradi, a Sappada 5 decimi di grado positivi, sul Monte Zoncolano 1 grado e 5 decimi, sul Monte Lussari 5 decimi di grado, sulla costa a grado 14 gradi, a Lignano 13. Le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia: oggi cielo variabile per gran parte della giornata, con bora moderata al mattino sulla costa, poi in calo. Dal pomeriggio sera probabile aumento della nuvolosità con piogge sparse e poi in serata saranno da moderate ad abbondanti sulla zona montana, deboli o moderate sull'alta pianura. Saranno possibili anche dei rovesci e qualche temporale, quota neve inizialmente a 1600-1800 metri circa, in calo nella notte fino a 1200 metri circa nelle zone più interne. Su bassa pianura e costa la probabilità di piogge sarà più bassa rispetto alle altre zone. Ieri pomeriggio a Roma il tavolo di trattative su Varsila, in cui erano attese le manifestazioni di interesse di possibili acquirenti dell'impianto triestino, ma il gruppo ha chiesto ulteriore tempo. Doveva essere un giorno cruciale per il futuro di Varsila e invece l'azienda si è presentata al tavolo romano a mani vuote. L'amministratore delegato Michele Cafagna ha chiesto fino a 4 settimane di tempo in più per approfondire le manifestazioni di interesse, ma gliene sono state concesse poco più di 2. Ci si tornerà a vedere il 5 maggio. Nell'appuntamento di marzo la società aveva annunciato che in questa occasione avrebbe fatto ufficialmente i nomi dei soggetti intenzionati a rilevare lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra, dato che la settimana scorsa scadevano i termini per avanzare una proposta vincolante stabiliti dalla stessa azienda. Così non è stato e sono arrivate critiche da tutte le parti. Dura la reazione dei sindacalisti presenti. Siamo esterrefatti, ci sentiamo presi in giro, è stato detto. Nemmeno le istituzioni hanno gradito, a cominciare dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Impossibile in questo clima avviare le trattative per i contratti di solidarietà che permetterebbero ai finlandesi di risparmiare sul personale rimasto senza molto lavoro da svolgere dal momento che le commesse si stanno esaurendo. I sindacati hanno poi chiesto e ottenuto di riprendere il confronto anche sul piano industriale di Varsila Italia per le attività diverse dalla produzione che impiegheranno 600 persone nelle intenzioni dell'impresa. Su questo il tavolo si svolgerà in regione a Trieste. Mentre sulla reindustrializzazione le parti si vedranno di nuovo al Ministero per le Imprese e il Made in Italy. Gli interessati, secondo le indiscrezioni, sono la giapponese Mitsubishi e l'austriaca Christoph. Alla porta rimane la tedesca Rheinmetall, attiva nel settore militare. Un incontro ancora troppo interlocutorio, commenta Antonio Rodà della Wilm, mentre l'USB spinge per una nuova mobilitazione. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Recruiting Day a Monfalcone, nella sede del comune, non solo Fincantieri ma ben 32 aziende del settore navalmeccanico hanno realizzato quasi 1000 colloqui di lavoro con persone già selezionate dai centri per l'impiego regionali in base ai loro curricula. 2.324 erano le candidature per 680 posti nei settori produttivi ed amministrativi della cantieristica navale. La direzione lavoro, servizi alle imprese della regione con una preselezione ha individuato 450 candidati programmando per loro 1.789 colloqui distribuiti su 32 aziende. La partecipazione effettiva è stata del 60%. Davis Raddi, direttore delle risorse umane in un'azienda dell'indotto Fincantieri. E in particolar modo noi stiamo cercando figure di saldatori e di tubisti. Noi ci occupiamo di impiantistica navale, trovare persone già formate non è cosa semplice. Massimo Esposito, dirigente di un'azienda di impiantistica elettrica. Stiamo cercando dei tiracavi elettricisti specializzati, anche persone da poter formare. Sentiamo ora alcuni candidati in cerca di occupazione. Sono un diplomato in costruttore navale all'Istituto Nautico di Palermo. Sono qui per fare il colloquio per l'indotto. Sono di Napoli, però ormai abito qua dal 2000, a Monfalcone. Io ho chiesto sia per vigile del fuoco che per saldatore. Gianni Fratte, responsabile servizi alle imprese della regione Friuli Venezia Giulia. Noi del servizio alle imprese, assieme agli operatori del centro per l'impiego, abbiamo analizzato e selezionato queste 2300 curriculum, valutando competenze e capacità per favorire l'incrocio fra la domanda e l'offerta di lavoro. Anna Cisint, sindaco di Monfalcone. Le persone hanno voglia di lavorare, non è vero che non hanno voglia di lavorare, quindi bisogna far arrivare da ovunque qualcuno. E finalmente Fincantieri non assume solamente dirigenti, capi, assume anche operai. Del resto la manifattura senza mani non esiste. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Lima Corporate di Villanova di San Daniele, azienda leader nel settore protesi, continua a crescere e a investire nel territorio. Lo stabilimento si amplia e raddoppia la sua attività. L'investimento sfiora i 5 milioni e mezzo di euro e porterà l'azienda pioniera nella produzione di impianti ortopedici al raddoppio, passando da 600.000 pezzi l'anno a oltre un milione e a un centinaio di nuovi posti di lavoro. Si sommeranno ai 600 già operativi nel quartier generale di Lima Corporate a San Daniele del Friuli, identico a quello realizzato 5 anni fa da 2.000 metri quadri. Il nuovo corpo di fabbrica in costruzione sarà pronto nel giro di qualche mese. Ha preso il posto della vecchia canonica del paese che l'azienda ha ricostruito ex novo, poco distante, insieme a un parcheggio pubblico, un segnale importante per l'economia regionale, anche se come altre aziende patisce la carenza di manodopera. Oltre ai 100 nuovi posti in previsione, si cercano per quest'anno più di una decina di dipendenti. Luca Vozzi, vicepresidente Operation Lima Corporate. Facciamo fatica a trovare le persone, non le competenze. Persone che vogliano fare il turno notturno. Sul totale della popolazione che lavora qui nella sede di San Daniele, l'80% è friulana. Ci aspettiamo di poter attirare ancora di più. Il programma complessivo di espansione nel sito friulano vale 10 milioni di euro e da qui al 2025 porterà anche alla realizzazione di un nuovo centro logistico e a un magazzino. La multinazionale controllata dal fondo svedese QT continua così a crescere e a investire nel territorio, consolidando la sua posizione di leader del settore, una realtà da oltre 200 milioni di fatturato con 3 siti produttivi anche in Sicilia e in America, con più di 1.000 dipendenti e filiali e clienti in mezzo mondo. Dopo 2 anni di rallentamento a causa della pandemia, il suo mercato è in forte ripresa. Federico Lattuada, vicepresidente marketing Lima Corporate. Noi siamo molto presenti in Italia, però nel tempo il peso del resto del mondo è aumentato significativamente. Le previsioni sono positive, ci aspettiamo che questo trend di ricrescita prosegua per i prossimi anni. San Daniele del Friuli, Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sforzo è massimo per giungere nel più rapido tempo possibile alla soluzione, a dirlo il procuratore di Udine, Massimo Lia, in merito alle indagini sull'omicidio di Luca Tisi, il senza tetto ucciso a Udine nella galleria dell'ex cinema Capitol sabato notte. Raccolti indizi relativi ai sospettati, ad agire potrebbe essere stata una sola persona, e alle motivazioni dell'aggressione così violenta. E un 69enne è stato ricoverato ieri in condizioni gravissime dopo essere finito sotto il trattore che stava conducendo e di cui ha perso il controllo lungo una strada sterrata nella macchia boscosa del territorio di Verzegnis. Il mezzo, guidato da Bruno Paschini, si è ribaltato schiacciando l'uomo. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo dalle lamiere in arresto cardiocircolatorio a causa delle gravi ferite. È stato rianimato, impossibile però portarlo in volo in ospedale, è stato trasferito urgentemente a Udine in ambulanza in condizioni estremamente gravi. in gravi condizioni, un 85enne di Praturlone di Fiume Veneto. L'anziano è rimasto ferito mentre stava utilizzando un trattorino tagliaerba. È stato trasferito dall'elisoccorso al Santa Maria della Misericordia di Udine. E in fortunio di lavoro per un uomo di 48 anni, soccorso ieri a Devetachi in una zona boschiva di Doberdò del Lago, al confine con il territorio del comune di Savogna di Sonzo. L'uomo si è ferito ad una gamba mentre stava utilizzando una motosega per il taglio delle piante. Non è grave ed è stato trasferito all'ospedale di Gorizia. A Trieste nel pomeriggio di ieri un vertice tra i prefetti della regione ha fatto il punto sugli spazi, pochissimi, ancora disponibili per accogliere migranti dopo la stretta annunciata dal governo. Se a Roma slitta la discussione in Senato sul decreto Cutro, che tra le altre cose propone la contestata abolizione della protezione speciale per i migranti, anche a Trieste l'atteso vertice tra i quattro prefetti della regione sulla questione migratoria si è concluso senza ancora una certezza sull'ipotizzata creazione di un hotspot per accogliere temporaneamente i migranti in arrivo. Per il momento silenzio stampa da parte dei rappresentanti di governo al termine di un confronto che si è tenuto a Trieste ed è durato un paio d'ore. Sul tavolo si studiano soluzioni agli arrivi dalla rotta balcanica, che in questo territorio sono giornalieri. Tutti i rappresentanti di governo si sono detti concordi nel fatto che i posti per l'accoglienza siano ormai esauriti. Nella provincia di Gorizia attualmente sono 689 i migranti in accoglienza, di questi 460 si trovano nel CARA di Gradisca di Sonzo, che ha una disponibilità totale di 330 posti. In sovrannumero dunque, anche se lo scorso agosto sono state ospitate fino a 800 persone nella struttura. Mancano posti, ha osservato il prefetto Raffaele Ricciardi. Nelle ultime 24 ore si sono presentate spontaneamente una trentina di persone davanti al CARA. In provincia di Pordenone 525 migranti accolti. Sono ancora pochi i posti disponibili, ha spiegato il prefetto Domenico Lione. All'ex caserma Cavarzelani di Udine, ha aggiunto il prefetto Massimo Marchesiello, i 530 posti disponibili sono tutti esauriti, si sta registrando un incremento d'arrivi. I rintracci in provincia sono quotidiani, anche fino a 70 persone circa, come è avvenuto nei giorni scorsi. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E Palazzo d'Aronco a Udine ha accolto ieri il nuovo sindaco Alberto Felice De Toni. Proclamato, insediato e operativo il nuovo sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. L'ufficialità è arrivata non appena ricontrollati i dati delle urne da parte dell'adunanza dei presidenti di seggio, che hanno redatto i verbali del risultato elettorale. Nel pomeriggio la presa di contatto con il nuovo ufficio a Palazzo d'Aronco, l'incontro con il segretario generale e il passaggio di consegne con Fontanini. Sul tavolo gli adempimenti più urgenti, come l'incontro in prefettura in vista della dunata degli Alpini e la decisione da prendere sull'apertura o chiusura delle scuole. Il progetto è stato vincente, ha ribadito De Toni, anche e soprattutto perché civico e non improvvisato. Le forze civiche che alla fine hanno fatto una convergenza sono ben otto. Abbiamo cominciato a lavorare, diciamo, dall'estate scorsa, poi a settembre c'è stata, diciamo, un'accelerazione e dopo la dialettica vera è stata col PD. Che poi si è sciolta a fine dicembre, ecco, questa è la verità. È proprio al PD, che dovrebbe esprimere 4 assessori su 10, ma anche a tutte le liste che lo hanno sostenuto, è già arrivata la richiesta di presentare una prima rosa di nomi, base di partenza per le trattative per la nuova giunta. Entro l'8 maggio dovrà riunirsi per la prima volta il Consiglio Comunale. De Toni vuole arrivare alla definizione della sua squadra, metà uomini e metà donne, la settimana prima. Attendono di conoscere i nomi anche le categorie economiche e cittadine. Confcommercio sottolinea come il rapporto di confronto con Palazzo d'Aronco sia continuo, alla ricerca di nuovi spunti per aumentare l'attrattività del centro storico e delle periferie. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il collettivo spontaneo Nessuna Ovovia a Trieste presenterà i risultati della raccolta delle osservazioni alla variante numero 12 al piano regolatore, propedeutica e la realizzazione della cabinovia per il tratto Barcola-Bovedo-Piccina. Le osservazioni, firmate dai cittadini che si sono presentati spontaneamente, sono state raccolte in coordinamento con il comitato Novovia e altre realtà cittadine. L'appuntamento è in piazza Unità Trieste alle 15. E sarà inaugurato alle 13 il punto di ascolto antimobile holding di Via dei Capitelli 2 a Trieste. Il centro è gestito da ANOLF, è dedicato alle vittime di violenza, in particolare alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che subiscono molestie morali e psicofisiche, nonché fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro. Le porte del punto di ascolto saranno aperte su prenotazione il martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e il mercoledì dalle 10 alle 12. L'iniziativa è finanziata dalla Regione in convenzione con il Comune di Trieste. Offrirà diversi servizi gratuitamente e con il supporto di un'equipe multidisciplinare composta da una psicologa, un avvocato, un medico legale e una educatrice professionale. Comunità energetiche rinnovabili, nuovi strumenti per la transizione sostenibile. Il tema sarà approfondito con l'esperto del settore, Fabio Aramanasco, e Marco Bagnariol, direttore di Confcooperative Pordenone, che parlerà del modello cooperativo per le CER. L'incontro nella sala convegni di Codroipo alle 16.30 è organizzato da Confcooperative Pordenone e da Confcooperative Alpe Adria, il cui direttore Paolo Tonassi ci spiega quali sono le opportunità, i vantaggi e le modalità per realizzare le CER. I vantaggi principali sono quelli dell'autoconsumo e della produzione collettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili, per cui c'è da un lato un aspetto di risparmio, visto che produco energia e direttamente l'autoconsumo all'interno della comunità, che è un risparmio appunto di approvvigionamento di energia elettrica, un vantaggio che è quello dell'incentivo riconosciuto dalle autorità per quanto riguarda l'autoconsumo e una tariffa anche di risparmio da trasporto energetico, che sono i due fattori economici più importanti, e poi c'è un fattore, se vogliamo, ambientale, che è quello di produrre energia da fonti rinnovabili, per cui non da fonti fossili come possono essere il petrolio o il carbone. Di comunità energetiche se ne parla molto ultimamente, come realizzarle sia da parte dei comuni che delle cooperative? Come cominciare? Dove cominciare? Dagli incontri per cercare di capire quali sono le esigenze delle comunità e cercare di intercettare un po' quelli che possono essere i produttori, perché qui si parla di prosumer, cioè di produttori e consumatori di energia elettrica. C'è chi può essere il soggetto che ha la fonte rinnovabile, principalmente parliamo di energia da fotovoltaico, perché da noi l'eolico e le altre forme sono meno sviluppate e dunque è in grado di produrre energia elettrica, e chi nello stesso momento in cui un soggetto la produce è in grado di consumarla. Come possono essere costituite queste comunità energetiche? Può essere un'associazione, può essere una cooperativa, l'importante è che non sia un ente giuridico che abbia tra i propri scopi il profitto finanziario, perché parliamo di società che non sono a scopo di lucro. A Udine, iniziativa dell'università aperta a studenti, laureandi e laureati che potranno incontrare le aziende del territorio, 120 i posti di lavoro offerti da 15 organizzazioni. Presentato a Palazzo Caiselli dell'Università di Udine il programma dei mercoledì del Placement, l'incontro tra i laureati dell'Ateneo Friulano e il mondo del lavoro. È un'iniziativa che dura da ben 8 anni con ottimi risultati. Il primo appuntamento è per oggi, seguirà mercoledì 3 maggio. 120 le posizioni a disposizione da 15 organizzazioni, tra le quali per la prima volta anche realtà no profit. 2 le sedi. Per oggi, a partire dalle 14, 18 realtà si presenteranno negli spazi di Palazzo Antonini e si renderanno disponibili la raccolta dei curriculum e brevi colloqui personali con studenti laureandi e laureati. Mercoledì 3 maggio, invece, nella sede dell'Università dei Rizzi, dalle 14 saranno 7 le realtà aziendali a presentarsi e a raccogliere i curriculum. Il delegato al placement, Marco Sartor. È un risultato importante. E l'Università di Udine investe in queste iniziative, e grazie anche a queste iniziative è uno dei primi 5 atenei in Italia per sviluppo occupazionale. Quali le posizioni più ricercate? Ingegneri, informatici, ma in questo momento storico ci sono forti domande per tutti i corsi di laurea. Il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton. Quello che è importante è che cerchiamo di fare anche che i nostri, naturalmente, laureati trovino una giusta occupazione nel mondo del lavoro. Ecco, questo di poterli accompagnare con questi sistemi rende più facile il salto, che a volte può sembrare nel buio, verso il mondo del lavoro. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La 32esima edizione di Mittelfest di Cividale del Friuli si interrogerà quest'anno sul tema dell'inevitabile e sulle possibili vie inedite per ciò che pare già tracciato. Una rassegna unica in Europa, ma sdoppiata in due sezioni, dal 18 al 21 maggio Mittel Young e dal 21 al 30 luglio Mittelfest. Due festival che porteranno in scena complessivamente 38 titoli con artisti provenienti da 13 paesi della Mittel Europa e dei Balcani. Alcuni degli appuntamenti nelle parole di Giacomo Pedini, direttore artistico di Mittelfest. Il programma va avanti un po' su quella che è l'anima di Mittelfest, quindi il rapporto tra l'Italia e l'area centro-europea e balcanica. Abbiamo un debutto importante di una nostra coproduzione con il Nazionale di Sarajevo, uno spettacolo, Marlene, che racconta di Marlene Dietrich e del suo grande rifiuto al nazionalsocialismo, a Hitler e la scelta di schierarsi con gli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi avremo, diciamo, sempre nella lottica di Mittelfest di esplorare Cividale del Friuli e i suoi luoghi, avremo la possibilità di ascoltare la poesia di un grande scrittore serbo, Danilo Kiš, all'interno di una meraviglia come la chiesa di San Giovanni in Senodocchio. Ma poi, insomma, continua il programma con un importante ritorno, quello in Piazza Duomo, con il nostro palco principale, dove avremo grandi artisti. Alcuni appuntamenti con la musica: la pianista Viviana Lazarcina, la protagonista della stagione cameristica di Trieste, Cromatismi 2.0, promossa dall'Associazione Chamber Music di Trieste. Il programma al Teatro Miela alle 20.30 sarà interamente dedicato al repertorio spagnolo. Il concerto segue il filo rosso del capolavoro di Granados e sarà quindi ispirato ai quadri di Goya esposti al Museo del Prado. Il repertorio per pianoforte sarà anche al centro del concerto del Conservatorio nella Sala Tartini a Trieste, come sempre alle 20.30. I riflettori saranno puntati sulla pianista serba Nina Kobaš. Il programma spazierà da Joseph Haydn a Mikhail Glinka, per passare poi a Claude Debussy e a Stanko Šepić. Sarà il flauto traversiere invece il protagonista delle stanze della musica, evento promosso in collaborazione tra il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl e il Conservatorio Tartini. A condurre i visitatori alla scoperta di storia, funzionamento e repertorio del flauto traversiere saranno alle 17.30 gli studenti del professor Manuel Staropoli. Evento di punta per il FVG International Music Meeting, organizzato dall'Associazione Ensemble Serenissima. Ospite della serata al Teatro Zancanaro di Sacile alle 20.45 sarà la Franco Run Koželjski Symphony Orchestra di Velenje in Slovenia. La Corale Seghizzi replica la Via Crucis di Franz Liszt a Castagnevizza. Il concerto si terrà nella Chiesa dell'Annunciazione, annessa al convento, alle 19.45. Andiamo a teatro. Mauro Canali, il maggiore studioso di Matteotti, introduce la messa in scena di Giacomo, liturgia scenica sul conflitto tra violenza e libertà, proposta alla Sala Bergamas di Gradisca di Sonzo, oggi e domani alle 20.30, nell'ambito della rassegna Innesti, connessioni teatrali affatto prevedibili. Con Giampiero Borgia, regista, Canali partecipa in un incontro pubblico coordinato da Adriano Ossola, presidente di Estoria, alle 18.00 al Teatro Nuovo Comunale di Gradisca di Sonzo. Per il circuito Art, Lella Costa, oggi al Teatro Modena di Palmanova alle 20.45 con Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Al Teatro La Contrada di Trieste andrà in scena alle 20.30 Stracapirse, ovvero tu che m'hai imparato a di. Spettacolo creato per il progetto La Lingua del Cuore del Circolo della Stampa di Trieste. Interpreti Ariella Reggio, Marzia Postonia e Valentino Pagliei. Alla fisarmonica Alexander Ipavez, testi di Luciano Santin. Bulli di Sapone è uno spettacolo messo in scena dall'Associazione Arti Varti di Portogruaro nell'ambito del progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui temi del bullismo e del cyberbullismo. In scena al Teatro Bobbio a Trieste alle 12.30. L'evento è promosso dai comuni di Trieste, Muggia, Duino Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino. Nasce a Trieste il primo museo della moda contemporanea in Italia. È It's Arcademy Museo, ma anche spazio espositivo e luogo di formazione. Ieri l'apertura al pubblico. Molti visitatori, tra questi tanti turisti stranieri. It's Arcademy è aperta da giovedì a lunedì, dalle 10 alle 18. La creatività apre la sua casa a Trieste con It's Arcademy, la nuova casa di It's, il talent internazionale di giovani creativi nato 20 anni fa dall'ispirazione e dal talento della triestina Barbara Franchin. Chi passa per Trieste o chi decide di venire a Trieste appositamente per questo trova uno spazio di 1400 metri quadrati dedicati alla bellezza e alla creatività. Trova uno spazio dove vengono raccontate le storie che stanno dietro ai progetti creativi e il visitatore viene rapito e portato via da queste storie che sono le storie dell'umanità, le storie del mondo, le nostre storie. Aprono il Museum of Art in Fashion, il primo museo della moda contemporanea in Italia e la prima mostra firmata da Oliver Saillard, già direttore del Museo della Moda di Parigi. Tanti visitatori fin dal primo giorno, molti gli stranieri. Queste turiste tedesche vengono da Monaco, amano Trieste e sono appassionate di moda. We love fashion and... C'è poi la pittrice triestina che viveva a Parigi. Io dipingo, quindi sono qui per scoprire delle opere artistiche ad alto livello. Passavo di qui ogni giorno in attesa dell'apertura di questo museo. È un gran dono, un gran regalo alla città. Nello scrigno di It's Arcademy anche la library con l'archivio storico, un patrimonio che vale 5 milioni di euro, tra abiti, gioielli, accessori, foto e sogni realizzati. Porte aperte anche ai laboratori dove si verrà a imparare e a scambiare conoscenze. Prenotazioni e informazioni sul sito itsarcademy.org. Le visite guidate per le scuole sono già prenotate fino a giugno. Da ottobre previste anche aperture serali per eventi, libri, concerti e tanto altro. Per creativi e curiosi di tutte le età. Trieste, Marinella Chirico, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito di Go 2025, Nova Gorica ospita un incontro di storici dal titolo La storiografia delle terre di confine, oggi comprensione e sfide, che si terrà al centro culturale alle 18. Tra i partecipanti la storica triestina Marta Verginella. La professoressa Tullia Catalan incontra la storica Vanessa Maggi per parlare del nuovo saggio dal titolo La città italianissima, un'indagine sulle narrazioni politiche e gli usi pubblici della vicenda di Trieste, svolta sui principali organi di stampa e sugli atti parlamentari fino al memorandum di Londra nel 1954 che riassegna la città all'Italia, alla libreria Minerva a Trieste alle 18. Età anziana, tempo di diritti e responsabilità, il titolo del terzo volume nato dalla collaborazione tra 50 e più, Associazione dei Pensionati del Commercio e Fondazione Leonardo. La presentazione in Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone Udine alle 11. Sarà presente l'autore Marco Trabucchi. È stata prorogata fino al prossimo 30 aprile la mostra Pierpaolo Pasolini ed Ora Bassi, eredità ai contemporanei, allestita al Polo Culturale di Casa Maccari a Gradisca di Sonzo. L'esposizione nasce da un progetto di residenze artistiche dell'Associazione Culturale Io Deposito con la direzione artistica di Chiara Isadora Artico. Lo sport, ora partiamo dal basket, appuntamento infrasettimanale in A per la Pallacanestro Trieste che alle 20.30 sarà sul parquet del Pala Serra di Migni contro il Banco di Sardegna Sassari. Sassari arriva da una pesante sconfitta e la troveremo sicuramente arrabbiata, ha avvertito l'assistant coach Massimo Maffezzoli, che ha parlato di una prestazione con Varese, l'ultima costata carissima. Obiettivo da perseguire ora, però, ha detto Maffezzoli, chiudere al meglio il prima possibile il discorso salvezza. Naso rotto per Michele Ruzziar, che però, dotato di maschera protettiva, sarà della partita. Volley maschile si gioca questa sera il ritorno dei playoff promozione della Serie A2 a Prata. La Tinet ospita i Lupi di Santa Croce dell'Arno che all'andata hanno vinto per 3-0. La formazione di Boninfante deve vincere per poter arrivare alla bella di domenica. Bronzo per Mirko Zani ai campionati europei di sollevamento pesi a Yerevan in Armenia, il 26enne azzurro, nativo di Pordenone, bronzo all'Olimpiade di Tokyo nei 67 kg e ora passato alla categoria dei 73 conquista il bronzo con un totale di 335 kg e l'oro di strappo con una gara di specialità perfetta, 3 prove valide su 3, la migliore delle quali a 155 numeri che gli consentono di entrare di diritto nella ranking olimpica al 7° posto. Per lui anche 3 nuovi record italiani. Nello slancio è stato il primo del gruppo a mettere sul bilanciere e a sollevare 180 kg, record italiano di specialità. Nella terza prova 182 non è andato oltre la prima parte della girata. L'azzurro chiude 7° di specialità, ma grazie a un totale di 335 record italiano riesce a conquistare il 3° posto di totale. La gara è stata vinta dal lettone Suarez, argento allo spagnolo Sanchez Lopez. Calcio, il tecnico di Lucinico e di Reia non siede più sulla panchina del Nova Gorica. La società sportiva slovena, che lotta per la salvezza nella massima serie, ha annunciato la conclusione dell'esperienza. L'ex commissario tecnico della nazionale d'Albania ha guidato il Nova Gorica in 7 partite. Durante questo periodo ha ottenuto 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. A sostituirlo a Gronchalia, 50 anni, ex calciatore, già alla guida della nazionale giovanile della Slovenia e allenatore del Celje. 7:48 minuti e 54 secondi, cominciamo la nostra rassegna stampa. L'apertura del Piccolo di Trieste è inevitabilmente dedicata alla Wärtsilä, che chiede tempo. Silenzio su investitori e offerte, la Dica Fania dice ci serve un altro mese, sindacati e istituzioni delusi. In taglio alto in prima pagina una coloratissima fotografia che annuncia l'apertura della mostra il 22 aprile, esposizione che durerà fino al 15 agosto al Salone degli Incanti, la Chapelle Le mie storie a Trieste. L'intervista al fotografo è un ampio inserto all'interno del giornale, inserto dedicato dunque alle sue opere. Tornando in prima pagina c'è un'altra fotonotizia più piccola a centro pagina, una nuova estate senza la diga SOS della Lega Navale. Nessun interlocutore si è fatto avanti per gestire l'area col sodalizio che l'ha in concessione dal 2020. E poi altri due titoli a destra per il dopo Grilli al sociale. Nella lista di piazza la scelta cade su Tognolli, dunque l'assessorato al sociale. Palazzo Dreher, si va al rogito, restano i dubbi sui tributi. Si parla dunque della vendita del Palazzo Dreher. Poi ancora in prima pagina altri titoli dedicati alla scienza, il progetto Tuase Elsevier, la crisi climatica allontana la parità, la doppia sfida di 8 scienziate. E poi l'iniziativa Dal Carso al Mare, la marcia dei ricercatori per la Terra che si terrà venerdì mattina, marcia organizzata da Area in collaborazione con OGS, CNR, Università e Immaginario Scientifico. Sul Messaggero Veneto di Udine, De Toni, nuovo sindaco, dice catalizzerò le esigenze di tutto il Friuli con la regione, rapporto istituzionale. Accanto una fotonotizia ancora con le indagini sull'omicidio di Luca Tisi, il senza tetto, ucciso a Udine all'interno una disamina di quello che è stato visto guardando le telecamere di sorveglianza della zona. I sospetti si concentrerebbero ora su un uomo in bicicletta che compare in alcuni fotogrammi. Di spalla, bar distrutto dall'auto di Udoge qualche notte fa in centro a Udine, il calciatore vuole scusarsi con la titolare. Poi palloncini e dediche a Verzegnis per l'addio alla giovane morta in un incidente e si ribalta il trattore, un 69enne in gravi condizioni, lo abbiamo riferito in taglio basso. Poi un richiamo per il programma del prossimo Mittelfest. Sul Gazzettino, De Toni, già al lavoro per la giunta, primo impegno questa mattina mattina con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in vista dell'adunata degli alpini. Nella fotonotizia, la rinascita del super bonus. Le banche aprono le casse. Di spalla alla protesta, lo stringer, lo striscione, con scritto la scuola è di tutti, per una assemblea non concessa. Ne abbiamo riferito ieri. A Chiusaforte, nel piano triennale del comune, ci sono investimenti antivalanghe a Sella Nevea. Infine la cronaca, truffa del cartellino, 3 forestali scelgono il patteggiamento, non timbravano durante la pausa pranzo. Il piccolo di Gorizia e Monfalcone in taglio alto, ancora la foto di La Chapelle e poi il titolo a centro pagina. Varato in prefettura a Gorizia il piano antiroghi, il progetto di prevenzione che in realtà è un progetto di sensibilizzazione e formazione della cittadinanza, carso o non arso, investe 7 comuni, bonifica bellica dei sentieri. Sotto una fotonotizia con il titolo Recruiting Day, 272 candidati, che è anche il tema del capocronaca di Monfalcone all'interno del giornale. Tornando in prima pagina, Gorizia, la variante al PRG, al piano regolatore per il campus nell'ex ospedale incassa il primo sì. Questo è il tema anche del capocronaca all'interno del giornale. In consiglio comunale ha approvato le direttive per la formulazione della variante e dunque al piano regolatore. Poi un altro titolo in prima pagina, Dolegna blindata per la bonifica di 75 bombe al fosforo emerse dallo Iudreo. Il lavoro effettuato dalla Brigata Pozzuolo e il sindaco Felcaro dice: fate attenzione. Cantiere in stallo, ospedale senza letti, l'apertura del gazzettino di Pordenone, manca ancora parte delle nuove attrezzature per il polo medico, il rischio di far saltare l'apertura. Di spalla, in 3 mesi 15.000 multe in città, una ogni 7 minuti. Poi da Sacile i ragazzi del liceo Pujati ieri ad Auschwitz con il presidente Mattarella e 2 ampie pagine dedicate alla ripartenza dei bonus edilizi all'interno. Per in città, 200 parcheggi in 7 anni, l'apertura del Messaggero Veneto di Pordenone e poi la giunta varata a Sacile Carlo Spagnol dal sindaco Carlo Spagnol. Marco Bottecchia sarà vice sindaco. Anche qui c'è una foto per l'omicidio di Udine e le indagini. Il basket in lutto per Corradi, morto a 62 anni per un infarto. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 la rubrica in friulano Welfe Velindi, che parlerà del docufilm biografico Toros Ministro Operaio. Alle 11:20 andrà in onda A Volo Radente. In regia Andrea Fontano e Tommaso Vinoni, in redazione ha collaborato Laura Sarasini da Eva Ciuccheri. Grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.